Intro. Non c'è nulla da dire. Non c'è nulla da fare. Da dire. Per te, per me. Non c'è nulla da dire.